Tu sei un giornalista di merda, perché tu stimoli andare al cesso. Quando sento te, te mi viene voglia di cagare, perché tu hai una capacità di fare giornalismo pari a zero, pari a zero, ok? La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. La zanzara. Attenzione, contiene turpiloquio. Intervieni responsabilmente. Le argomentazioni di Cruciani e Prenzo non costituiscono un incentivo a insultare i conduttori. Non fare complimenti alla trasmissione. Non ce ne frega un cazzo. My husband doesn't want to kiss me because he's always listening La zanzara. So boring. Sì, l'estremismo di questi ultra vegani, non tutti, Parenzo, non tutti naturalmente, perché io sono amico di moltissimi vegani che non si sognerebbero mai di dire certe cose. L'estremismo di questi ultra vegani è arrivato al limite, è arrivato al limite. Io non so nemmeno come si chiami questa signora, più tardi lo scopriremo nel corso della trasmissione. Credo Roberta di nome, di battesimo. Di battaglia. Sì, di battaglia. Questa qua è una professionista nel suo settore, nel settore privato, ed è anche un'attivista ultra vegana, un'attivista animalista. Allora, cosa è successo? Ecco. È arrivata una foto di un bambino, lei è arrivata, diciamo, d'accordo, su Facebook, non so, in tutte queste diavolerie, caro Parenzo, diavolerie. Sono i profili, web, eccetera, eccetera. Pieni di webety. Esatto. Allora, è arrivata una foto con un bambino che mangia una bistecca. D'accordo. Un bambino naturalmente con gli occhi coperti, no? Un bambino con gli occhi coperti. Sì. Indovina questa signora come ha commentato. No, la più palle. Puoi immaginare, cioè, nella maniera peggiore che si possa commentare. Beh, non è cosa... che ha detto, che ne so, una cosa normale sarebbe un vegano. Buon appetito. Vabbè, sì, io avrei detto sì, se avessi voluto commentare avrei scritto buon appetito sotto, oppure che bella, chi è questo bambino, come mai postate la foto di un bambino, oppure che ne so, dove siete. Sì, ma io anche niente, mi sarei letto un libro, esatto. Ho guardato, allora, se fossi Buchini avrei guardato un film porno e basta, insomma, non avrei fatto nient'altro. Adesso non è che Buchini guarda solo no, il film porno. No, voglio dire, fossi stato Cruciani, che so, non mi sarei lavato i capelli per una settimana, cioè non avrei neanche commentato, non me ne frega niente. Questa signora invece ha scritto la frase più agghiacciante che si possa scrivere, che va oltre l'essere vegani, secondo me. Rivolto a questo bambino, perché lì di quello si tratta. Sì. Speriamo crepi di cancro da giovane. Ale. Cioè, ragazzi, questa qua è membro di un'associazione animalista, ultra vegana, eccetera, eccetera. Speriamo crepi di cancro da che giovane. Schifo. Il bambino. Ciao a tutti, sono Vittorio e ho il segreto della giovinezza. Per mantenermi giovane e bello quale sono, io faccio gli impacchi di figa. E voi non fate i coglioni, ma fate gli impacchi di figa. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non somministrare alle capre ignoranti. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? No, ma risentilo cos'è bene. Cos'è sto audio? Risentilo bene. È Sgarbo, è Sgarbone. No, ma ho capito, ma è Sgarbone. È un'imitazione di Sgarbo. È un'imitazione che non è Lauretta, quello di Ciao Belli. Credo, perché non l'ho sentito. Potrei sicuro che sia lui. Puoi dirlo, a me fa impazzire anche lo Sgarbi, posso dirlo? Di, quale, no, non quale? Lo voglio dire, perché è un'altra radio. No, ma dimentichiamo che ce ne frega. Di Radio Italia mi fa impazzire. Fa impazzire lo Sgarbi di Radio Italia. Davvero? Davvero? Sì, quello è meraviglioso. E anche il Moratti di Radio Italia. Tutte le mattine Paoletta e Patrick ascolto sempre quando porto mio figlio a scuola. Ma che cazzo fai? Ascolti la... Ah, beh, benissimo. Non ascolti Radio 24 la mattina? No, aspetta un attimo. Ho le cuffiette con Radio 24. Vabbè. Però siccome mio figlio vuole ascoltare la musica... Ma a che ora questo? A che ora? Ma verso... Non mi ricordo. A che ora? Dimmi l'ora. Esco di casa alle 8:30 praticamente. Quindi ascolto sempre Milan quando sono a fare la colazione. Sì. Sempre. Comunque ogni tanto c'è questo straordinario Sgarbi che viene... Che cosa? Purtroppo è una cosa che... Comunque non c'è più, non lo fanno più adesso, mi pare. Okay, da anni, non lo fanno più, mi pare. Ciao a tutti, sono Vittorio e ho il segreto della giovinezza. Per mantenermi giovane e bello quale sono, io faccio gli impacchi di figa. E voi non fate i coglioni, ma fate gli impacchi di figa. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non somministrare alle capre ignoranti. Allora, è buono, vero sì. Buono. Tutto questo nasce da che cosa? Dal fatto che Sgarbi, credo 2 giorni fa, su Facebook ha scritto il segreto per... Ma davvero, è vero Sgarbi, eh? Ha scritto il segreto per mantenersi giovani e fare impacchi di figa. Che è una cosa, insomma, un po'... Cioè, secondo lui, più figa hai, cioè più figa ti fai, eccetera, eccetera, più rimani giovane. Vabbè, numero uno sempre. Abbiamo appreso sempre nella giornata di oggi... che alcuni signori, caro Parenzo, hanno raccolto 700 firme, più di 700 firme a Jesolo. Sapete tutti dove è Jesolo, inutile che ve lo dico, no? Credo che sia stata una spiaggia frequentata anche dal signor Parenzo, Jesolo. Da ragazzo, sicuramente. Allora, Jesolo... Da ragazzo, essendo in Veneto, ci sono andato sicuramente. Allora, certo. Questo signore... Anzi, no, ti posso dire di più, ci andai quando con Luca Casarini io stavo al liceo, cacciammo a Il Pino di Aider, ti ricordi Jörg Aider? Come no? Da Jesolo, perché c'era un sindaco della Lega quando io ero al liceo che aveva piantato questo pino che gli aveva regalato Aider e noi andammo lì con le tute bianche a sradicare il pino che aveva regalato Aider, il razzista Aider. Andammo lì armati solo di mani, senza mazze né bastoni, e la polizia ci caricò, mi ricordo. Un atto di violenza stavate facendo un atto di violenza. Ma volevamo sfondare la zona rossa con questo pino che era circondato. Noi alzammo le mani, la polizia ci caricò e noi all'attacco con le senza mazze né bastoni, no, senza, certo, armati soltanto di qualche zainetto, avevamo qualche zainetto. E che c'era dentro lo zainetto? Ogni tanto sfondavamo per sradicare l'albero del razzismo. C'era questo albero, mi ricordo ancora, che era circondato da tutti i celerini. Certo. A Jesolo, certo. Vabbè, lo sapevano che volevano andare là. Certamente. E noi, fateci passare, non facciamo niente, abbiamo le mani, e alzavamo le mani, intanto sfondavamo, andavamo avanti, andavamo, meraviglioso. Vabbè, commesso contro reati a Iosa. Sì, ma reati non mi arrestarono però all'epoca. Ero al liceo, mi ricordo con Luca Casarini, prima fila, le tute bianche, tutte bianche, sui bastoni. Come sui bastoni, cazzo? Adesso non è, il caso adesso. Che non c'erano bastoni, mia, però, non c'erano. No, per carità. No, ti assicuro. Tutti mai. Pacifisti erano quelli là. No, tutta gente pacifica. L'obiettivo era quello di togliere un pino, però non di far male alla gente. Quindi beh, no, però se c'era qualcuno in mezzo, vabbè. Ma tu proteggi un pino, scusa. Comunque, torniamo a Jesolo a bomba. Va? Allora, Jesolo, cosa succede? Ma ti è piaciuto questo aneddoto che ti ricordo della mia giovinezza? Molto. E quando si dava l'assalto ai fascisti. Ma quello era un pino. Ma perché assalto ai fascisti? Oggi ci rido, ma era un pino quello lì, però. Comunque, però era un simbolo del razzismo. Era. Ma che simbolo del razzismo? Aider era un poveretto, dai, su. Cioè, eletto democraticamente. E che c'entra? Da Carinzia, che cazzo era? Carinzia, bravo, esatto. Allora, Mussolini, perché vi dico Mussolini? Sì. Perché due dei signori molto nostalgici, proprietari di bar, non so, hanno raccolto un sacco di firme per essere a Jesolo, perché vogliono praticamente intitolare l'ospedale di Jesolo. Mettono delle targhe, mettere delle statue al signor Mussolini. Insomma, perché l'hanno fatto, capito? Cioè, dei signori vogliono intitolare un ospedale al signor Mussolini nel 2016. Però, ragazzi, io vorrei tornare a bomba sulla vicenda di Gorino, perché c'è un parroco, questo sì, con i coglioni, non Bergoglio, che vuole aprire le porte a tutti, fottendosene poi di come vengono gestiti in Italia gli immigrati. Don Paolo Paccagnella. Don Paolo Paccagnella. Non tutti i preti. È una brutta persona. Ma che brutta persona. Senti, Don Paolo Paccagnella intercettato dagli amici di Fanpage. Lei sarebbe disposto a, lei sarebbe disposto ad accogliere, ad accogliere queste donne di bambini nella sua chiesa? Nella mia chiesa? Sì. Come sarebbe dire nella mia chiesa? Nella sua chiesa? La chiesa di Gorino è molto grande, lei sarebbe disposto ad accogliere queste... È molto grande la mia chiesa, è la sua casa? È la sua casa, mi scusi, è la sua casa? Io sono un cittadino italiano, deve accogliere lei a casa sua prima di tutto. Beh, li accolga lei a casa tua, a casa sua, non nella chiesa. Che gente che c'è. E questo sarebbe un uomo di chiesa. Vai, poi. Vai ancora, vai ancora. Che vergogna. Lei dice ai musulmani tornatevene in Iraq, al, nel vostro califfato. Non posso manifestarlo. Non è un messaggio di pace quello che manda lei. Io devo dare messaggi, io devo manifestare me stesso. Perché questo ha appeso un cartello fuori dalla chiesa in cui dice ai musulmani tornate in Iraq dal vostro califfo. Ma tutti... sarebbe da sospendere a divinis. Ma che sospendere a divinis? Sospendere, ma uno non può esprimere le sue opinioni. Il prete, scusa, non ho capito. Anche lui. Vabbè, esprimere le sue opinioni, dai. Ma su. Quella è la chiesa, non è la Lega, è la scusa. Chiesa, mica è una caserma la chiesa. Ma sembra la succursale della Lega Nord per la fu indipendenza della Padania, altro che comunque, chiesa. Comunque, secondo me dovrebbe prendersi in chiesa i cosi, gli immigrati. È uno che dice, in chiesa se li dovrebbe prendere. Siccome il suo capo, il Papa, dice che bisogna accoglierli, allora ritenesse in chiesa, a Gorino. Secondo lei Papa Francesco sarebbe contento di un messaggio del genere? Non aspettare Papa Francesco, perché Papa Francesco risponde di se stesso come lei e come io. Sono io che devo rispondere davanti a Dio, non lei, per me. Cioè, praticamente disconosce Papa Francesco, cioè parla per sé. E no, amico mio, tu sei il sottoposto di Papa Francesco. In teoria Papa Francesco è il tuo capo, non è che puoi dire no. Diciamo che Papa Francesco è l'amministratore delegato, lui è un dipendente. Don Paolo Paccagnella, il direttore generale, il presidente, non un po' condanna più i suoi concittadini, non li condanna. Quindi condannalo quello che hanno fatto i suoi concittadini. Ma io non condanno nessuno, Giovinato. Non sono mica chiamato a condannare io, sono chiamato a curare, a correggere. Cruciani, ma a me che sto in mezzo al traffico, chi me ne frega del traffico? La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Però a proposito di Sgarbone, Parenzo, devo farti sentire una cosa che credo che sia di un paio di giorni fa. Perché lui insiste su questa cosa del nero. Adesso, amico mio, per carità, io non sono uno di quelli fissati su queste cose qua. Capisco che spesso uno, qualche imprenditore, no, sia costretto perché non sopravvive, no? È un discorso antichissimo che sento ormai da 20 anni, da quando faccio la radio, da quando faccio il giornalista. Ogni tanto tutti questi discorsi sul nero. Oggi è molto più complicato fare il nero rispetto a un tempo, no? Allora Sgarbi dice: io preferisco il nero. Senti, preferisco il nero. Papale, papale. Il nero ti dà il senso che quello che devi guadagnare ce l'hai, ma perché devo dare il 50% a un cazzo di Stato vieni pagato, criminale? Vieni pagato spesso in nero, poi torniamo no, ovviamente sull'identità. No, io poco in nero, ma vorrei essere pagato sempre e solo in nero, perché io voglio pagare allo Stato solo quello che lo Stato mi dà. Se io pago le tasse, mi fanno il Palazzo di Giustizia di Firenze, danno lo stipendio a Verdini e Alfano, cioè io con le mie tasse pago lo stipendio, ma vaffanculo! Allora, Valentino Mantova, iniziamo Parenzo, iniziamo, vai, Valentino Mantova, non è Mauro, Valentino. Si aprono le fogne, avanti. Pronto? Dimmi, dimmi. Prego. Ciao, no, io non ho nessun legame con Mauro, tranquilli. Vai, vai Valentino, dimmi. No, a proposito di quella signora, non ho ben capito chi sia, ma è già tanto chiamarla signora che ha commentato la foto del bambino. Sì. Ecco, a parte dirle che dovrebbe un po' informarsi sull'alimentazione prima di imporre i suoi comandamenti nazi vegani ai bambini, perché i bambini hanno un'alimentazione diversa da un adulto o da un anziano. Vabbè, ma quelli sono cazzi loro, guarda, ognuno può dare quello che vuole al proprio bambino, poi ne risponde se ci sono delle conseguenze, eccetera. Però non è questo il punto, che vuoi dire? No, quello che volevo dire, a parte quello che è proprio priva di fondamenti quella cosa, sì, ma poi io sto aspettando qualcuno che la quereli questa qui. Ma quereli, cioè, chi? Ma chi la deve querelare? Il padre del figlio, naturalmente, cioè il padre di quel bambino, certo, là. Vabbè, ma certo, ragazzi, ma non la mettiamo sempre sul piano delle querele, questa, beh, è una, sì, deficiente, punto e basta. Cioè, una che scrive, speriamo che crepiti cancro da giovane, un bambino che mangia la carne, è semplicemente una deficiente. Cioè, non ma è che sì, c'è... ha dei problemi. Ma è assolutamente chiaro che è così, no? Cioè, vabbè, Valentino, ciao. Dove andiamo? Ciao. Giorgio, provincia di Lecce, vai. Giorgio. Sì, sono io. Sì, togli viva voce, dai, forza. Subito. Subito. Niente, io volevo intervenire riguardo al discorso di ieri sera sull'origine dei terremoti. Sì. La mia lei tesi, che è un geologo, lei che studi ha fatto, lei? No, non sono un geologo, no, sono semplicemente un, sì, commerciante che fa tante cose. Beh, un commerciante che fa tante cose. Bene, andiamo avanti. Benissimo. Forza. Certo, terremoti, quindi un commerciante. Un grande osservatore. Allora, io ritengo che... Sì. Che fa? Osserva, osserva sottoterra, lei? Come osservatore? Osserva sottoterra? No, guardi, io non ci casco nei suoi tranelli. Lei dice, io sono commerciante, però sono un grande osservatore. Io sono... un buon commerciante di carni. Di carni, sì, questo è buono, questo è buono. Va bene, questo terreno, quindi faccio un bel po' di cose con osservazione. Bene, con osservazioni, osservazioni, bene. No, osservazione. Sentiamo Giorgio. Bene. Giorgio, cosa ha da dirci sul terremoto? Osservato, sì, allora, riguardo a quello che voglio dire io è che... Sì, due punti. Noi è da un secolo che pompiamo petrolio... dal sottosuolo. Questo non c'è dubbio, cioè che noi prendiamo il petrolio dal sottoterra, questo io osservo che tra un po' lo mando a fare in culo, però dopo un secolo che noi aspiriamo il petrolio, io osservo che il tempo che allora secondo me si creano delle sacche, secondo lei, secondo me sì, enormi, certo, sono la causa dei terremoti. Cioè, modesto avviso, cioè fondato sullo stracazzo di nulla, praticamente. Nulla, questa niente, cosa qua. Meno di niente. Cioè, non è che sull'osservazione. Cioè, secondo lei l'estrazione del petrolio, io adesso la riduco bene, lei ha fatto lunga. Sì. Secondo lei, siccome prendiamo il petrolio da sottoterra, facciamo dei buchi, sì, le multinazionali dei buchi, in particolare, sì. Sì, facciamo dei buchi, sì, e dunque... Ecco. No, ho detto semplicemente, dopo che viene estratto si formano determinate le sacche. Sì, ma questo chi gliel'ha detto a lei? No, cioè, lui ha osservato, ma che scherzo. Questo è quello che io penso. Ma penso sulla base di quale stracazzo nulla, di... Come sempre, del nulla, del nulla. Giorgio. Sulla base di che cosa? Secondo lei, ma di un principio fisico. Se ma io quale principio? Ma lei fa il commerciante, non fa il fisico, fa il commerciante lei. Fa il commerciante. Ma ti rendi conto? Fa il commerciante, certo. Se io estraggo qualcosa, ma dovrebbero estrarre dalla sua testa, ma non trovano nulla. Questo è il dramma, che se le trivellano la testa trovano il vuoto pneumatico là dentro. No, questo è il punto vero. Allora, la scuotono ogni tanto, anche a casa sua, prendono due mani, le prendono la faccia e dicono vediamo se c'è qualcosa, tu, muovono e non trovano niente da 50 anni dentro quella testa. Questo è il punto, osservo da qua, da Roma, osservo questo da Roma. Ma siete disarmanti. Proprio. Ma siamo disarmanti, noi siamo disarmati, stai dicendo che dall'estrazione del petrolio arrivano i terremoti? Tu stai dicendo che dall'estrazione... Ma non è la stima? Che ma quale stima? Ho chiamato più volte, sempre lo stesso atteggiamento da parte vostra. È inqualificabile, secondo me, davvero... Cosa? Aspetta, come chi? Si chiama questo? Quello, ma non sai nemmeno quello che stai dicendo. Andiamo avanti, cosa? Andiamo in pubblicità, che è meglio adesso. Dai, vai avanti. Marijuana e zanzara, marijuana e zanzara, viva la zanzara, ciao Crucians! Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore, scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. La Zanzara. Bene, oggi è il mio compleanno, compio 33 anni e tutti mi fanno gli auguri, mi dicono cosa fai oggi, festeggi. A me non me ne frega un cazzo, io quello che penso è: ma quanto manca il podcast nuovo della Zanzara? Allora ragazzi, fa molto discutere quello che ha detto, credo ieri o l'altro ieri, non so, una deputata del Partito Democratico, una tale Morani, molto presente nei talk show. Molto Alessia presente. Morani, certo. Sì, Alessia Morani, non è che la conoscono tutti, è molto presente nei talk show. Alessia Morani, una deputata del PD, conosciuta. Renziana, molto renziana, eccetera, eccetera. Allora, ha detto una cosa che riguarda le pensioni, i mutui per le pensioni, sai, questa roba qui, no? Sì, come no. Andiamo con questo audio molto, molto criticato. Esiste uno strumento che magari conosciamo poco, che è fatto apposta proprio per gli anziani proprietari di casa che percepiscono pensioni basse, che si chiama prestito vitalizio ipotecario. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cioè, tu hai sentito, a un certo punto ha pronunciato queste frasi, questa frase, no? Esiste uno strumento che si chiama prestito ipotecario, sì, per gli anziani, cioè sostanzialmente per prendere una parte della pensione o la pensione potresti fare un prestito, chiedere l'ape, un prestito. L'ape, dai, sì, l'ape, insomma, no, questa, sì, vabbè, non è che lo conoscono tutti, eh. Vabbè, ormai, dai, l'ape, su. Allora, e se la sono mangiata, poi non si capiva più un cazzo, cioè poi non si capiva più niente. Incredibile. Cioè, praticamente è questo: pensioni basse, ipotecate la casa. Questo ha detto in sostanza, no? Beh, insomma. Beh, sì, un po' è così, dai, un po' è così. Ti leggo il commento della signora Mannoia, della signora Fiorella Mannoia. Mannoia, io non ho più parole. La proposta ai pensionati che non arrivano a fine mese è quella di ipotecarsi le case che hanno comprato con una vita di lavoro, magari con il progetto di lasciarla ai figli. Così il giorno che non ci saranno più sarà proprietà della banca. Ma vi rendete conto di che cosa dite o no? Poi dicono che dobbiamo essere ottimisti. Io ci provo, ma ti cascano le braccia. La signora Morani. Bah. Amerigo dalla provincia di Chieti. Vai, Amerigo dalla provincia di Chieti. Il tuo amico Chicco Testa, il nostro amico, perché è anche amico mio, il signor Testa, dice che la protesta di Goro va capita. Goro è come Capaglio. Sì, ho letto. Accogliere gli immigrati è un dovere, ma vanno fatti lavorare. E chi non ha diritto va rimandato a casa. Nella politica dei rimpatri siamo deboli, caro Chicco. La questione è molto semplice: non si possono proprio rimpatriare. Tecnicamente costa un sacco di soldi far rimpatriare le persone, purtroppo, dico io, purtroppo. Dunque, come leggo da qualche parte, abbiamo 50.000 migranti che non conosciamo, sconosciuti in giro per l'Italia. Oggi, prima pagina di un giornale, credo fosse La Stampa, 50.000 migranti fantasma. Cioè, siccome non possiamo rimpatriare nessuno, perché è praticamente impossibile, a parte gli imam, no, gli imam estremisti o pochi altri, ne rimpatriamo una manciata all'anno, perché questa è la sostanza. Cioè, se tu a un certo punto dichiari che sei profugo e alla fine non sei profugo, purtroppo non ti rimpatriamo. Ma cioè, questa è la sostanza. È così. Cioè, ma allora no. Cioè, scusa, ma uno di sinistra come Testa che dice: la protesta, no, di Goro va capita, capito. Nella politica dei rimpatri siamo deboli. Cioè, ci sarà una ragione, cioè, no? Testa dice che su una, dai, cosa ha su ragione. Dice che la questione dell'accoglienza è gestita in modo, è complicato, perché anche, no, le norme mettono Ma non è che a prescindere contro il fatto che delle donne e dei bambini cioè, non vengano non accolti secondo, pur di non dire che secondo te ha detto una cazzata no, pur di non dire che ha detto una cazzata per definizione non può dire ecco. Proprio per definizione Amerigo provincia di Chieti vai. Amerigo secondo me tendenzialmente non so che cosa dirà no Amerigo no. Non lo so quell'altro come si chiama quello che gli hanno trivellato che voleva che dice no. Che la trivellando la terra vengono i terremoti chi è quello là dove l'ha letto la roba là abbiamo già avuto che prima quel geologo lì dov'è quel commerciante di presidente dell'Istituto Nazionale di Geologia. Che cosa ha detto? Amerigo, provincia di Chieti. Vai, ragazzi, passiamo al delirio ormai. Dai, vai. Giuseppe. Dimmi. Ecco. Ciao, buonasera. Dimmi, ascolta, no, io ti volevo dire una cosa. Intanto ringrazio il passaggio che hai fatto, quel messaggio te l'ho mandato io della Roberta che ha augurato di... Vabbè, di... me l'hanno mandato in 40.000 in realtà. Sì. Un sacco di gente, anche tu, va bene, ti ringrazio. Io dunque... te lo dico perché sono uno dei genitori che ha dovuto curare all'ospedale di Pescara un figlio per una di queste terribili malattie. C'è un cancro, tuo figlio ha avuto un cancro. Sì, un tumore, sì, un cancro, un tumore. Aveva 12 anni, quindi ti posso dire... Certo, sei incazzato, quando ancora... senti un imbecille che dice una cosa di questo tipo sei incazzato. Ho certo. Ancora l'odore della necrosi, delle cure sì, certo, devastanti, certo. Quindi ce l'ho... per tutta la vita questo odore e questa stronza, questa stupida si permette di dire certe cose. Intanto se una persona degna dovrebbe dimettersi da tutti gli incarichi che ostenta, che banta nel suo profilo. Vabbè, ma adesso quella si dimette, quella ha un credo che abbia un'azienda privata. Questa qua, ma quello che ha, questa qua è una poveraccia, ha augurato la sofferenza e la morte di un bambino per far soffrire la mamma o il papà, i genitori di quel bambino. Io mi sento toccato pure io da questa cosa. No, ma tu hai ragione a essere toccato, sei una cretina su Facebook, su internet. Primo, non è che... primo, io sono uno che mangia la carne, cioè mangio normalmente per nutrirmi, non per fare... abbiamo capito che sei incazzato perché tuo figlio ha avuto un tumore, per carità, e questa signora qui ha detto che quel bambino là che mangia la bistecca io dovrebbe... questa stronza la prenderei, la porterei all'ospedale di Pescara dove sì. Tante donne, tanti uomini, oltre quelli che curano, sì. Vanno si attraversano da clown per alleviare il dolore di questi bambini, gente che fanno sacrifici gratis. Allora? E la farei fare lì, gli farei fare la pappagalla. No, un po' la volontaria per una settimana, dai, un po' una volontaria là. Questa qua deve imparare l'odore della necrosi di queste malattie, lo deve la notte deve addormentarci e la mattina risentirlo sempre. Ciao Amerigo, ciao tesoro. Ciao. Emilio, provincia di Pavia, vai. Emilio. Sei pronto? Dimmi. Emilio no, Trucco conosco io, l'avvocato, no? Emilio di Pavia. Mi frega. Intervento sul fatto di quel signore che ha telefonato dicendo che l'estrazione del petrolio dal sottosuolo crea delle sacche e via dicendo. Sì, sì. Allora io ho un amico carissimo che lavora in un impianto enorme a Dubai, sì, bene. Nella Saipem, sì. Dove di desalinizzazione dell'acqua marina. Vabbè, allora? Che viene pompata nel sottosuolo dove viene estratto il petrolio. E dunque? È una prassi comune estrarre il petrolio, desalinizzare l'acqua del mare. Ma cosa c'entra con il terremoto? Non c'entra con i terremoti. E questo però... si sta parlando, quello dice, ha detto che no, non c'entra. E allora? Non so se c'entra con i terremoti o non c'entra. Ma scusa, però ma di che stai parlando? Ma che ti sei rincoglionito? Cioè quel signore, evidentemente ti sei rincoglionito. Quel signore lì da Lecce ha chiamato prima dicendo che l'estrazione del petrolio provoca poi i terremoti. Chiaro? Allora, provoca delle sacche. Sì, ma non mi interessa. Ha detto che provoca i terremoti. Devono essere riempite. Ma qua in Italia se estraggono del io allora la catena penninica penso che sia tutto un altro problema, ma se Emilio, perché hai chiamato? Dall'Adriatico siete convinti che noi italiani desalinizziamo l'acqua e la spariamo nel sottosuolo dove abbiamo estratto qualcosa? Davide, pensaci tu, ti prego, pensaci tu, non ce la faccio, ciao, Davide, pensaci tu. Ma questo qua pronto? Ma non pronto? Lo so, cioè, Gabriele Brindisi se n'è andato, va meno Emilio? Male. Gabriele Brindisi. Parenzo? Dimmi, Parenzo c'è, certo. Sì, eccoci. Quel fantasma che appare, riappare, scompare. Ma veramente è sempre riappare. Scompare lei il suo cervello, ma non appare Parenzo. Mai. Ma io non ti capisco. Ieri c'è stato un grande terremoto, non ne hai parlato. cominci offendendo la gente. Ma del terremoto sulle qualità, ma fammi parlare. Ma di cosa devo dire del terremoto? Scusa, ma cosa devo dire? Ma cosa vuol dire lei del terremoto? Non ha parlato. Ero qua in studio, l'ho sentito. Che devo fare? Ma sei un intollerante, fammi parlare. Ma non stai dicendo nulla, però, Gabriele. Ma mi fa parlare, ma se si accavalla la voce, sei peggio di Donato a questo punto. Ma mi dici, Gabriele, offendi la gente, parli della tua vita privata, mi dici che porti tuo figlio a scuola, che vai a mare, che soccanti un altro, eccetera, eccetera. Ma a me della tua vita privata, che caspita. E allora chiudila, quando parla della sua vita privata, chiudi la radio, non ci rompere i coglioni. No, Giuseppe, io ascolto te, ti ascolto con grande interesse, ma Parenzo non lo so. Vabbè, pazienza, siccome sta qua, o lo sopporti oppure cambia. Io voglio una ragione, la mia più grande vicinanza a Donato da Varese. Perché anche se non riesce a dire dice le cose in maniera un po' troppo concitata, però alla fine diceva sempre che il mezzo è il messaggio, a volte si esprime male, ma alcune cose sono vere, caro Parenzo. Vabbè, Gabriele, allora dopo aver fatto questa roba che cosa vuoi aggiungere? Qualcosa? Per dire, io sono uno specialista dei settori di cui Parenzo pensa di essere un grande. Ma di cosa vuoi parlare? Io vorrei capire. Di cosa vuoi parlare? Giuseppe, voglio parlare della stupidaggine, della stronzaggine di Parenzo. Ciao, amico mio, ciao. Nuovo format radiofonico. Parenzo e Donato da Varese, divisi solo da una grata. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Ciao ragazzi, volevo solo dirvi che ieri sera sono andata in un ristorante e ho mangiato dei bellissimi uccellini fritti dorati. Si vedeva proprio la testa, sai, tutto il corpo, si mangiavano tutte le interiora. Quindi vorrei fare un grande saluto a tutti i vegani. Mua! Allora, caro David, a proposito della questione dei terremoti, ho ricevuto un messaggio, meanwhile, come si dice, no? Nel frattempo, da parte del signor Salvo Mandarà. E secondo te, il signor Mandarà, cosa ne pensa a proposito della trivellazione dei pozzi di petrolio che provocherebbe i terremoti? Secondo te? E sai chi è stato? Chi è stato? Mauro da Mantova. Sì, chi è stato? Il terremoto? Sai chi è stato? De Benedetti! Perché De Benedetti c'ha la casa in Umbria! Sì, ma anche questo cosa... De Benedetti è stato! È il Bilderberg! Hanno fatto tremare tutto per poi ricostruire! E sai chi c'è? Mandala. Mamma mia, ragazzi. Giuseppe, tu e quel coglione lì del tuo amichetto, guarda che è notorio che le perforazioni petrolifere e soprattutto il fracking, che tu forse non sai neanche che cazzo sia il fracking, ecco, causa terremoti. Vai a studiare un po' di cose che dice la scienziata Maria Rita d'Orsogna. Così magari capisci, Maria Rita d'Orsogna, il fracking può essere causa di terremoto, quindi smettetela di denigrare quelli che sono un pochino meno coglioni di voi. Hai capito? Il fracking, sì. Io conoscevo il frack, quello che si mette il frack. Poi però conosco anche delle cose che si chiamano camicie di forza, che sono delle cose che venivano utilizzate in passato. Poi è arrivato il signor Basaglia. Purtroppo, per certi aspetti. No, io sono progressista, però alle volte anch'io. Alle volte, ai noi, anch'io devo dire Basaglia, perché lo hai fatto tanti anni fa, perché lo hai fatto. Però ci sono delle camicie che sembrano antiestetiche, che sono bianche, hanno una legatura. No, sono bellissime, elegantissime, bianche. Sì, sono bianche, piuttosto molto robuste. Molto eleganti. Come dire, ti non hanno cerniera, sì, ti tengono le braccia con sé, proprio avvinghiate al corpo, legate, sì, legate, e non ti danno la possibilità di muovere le braccia. Sono delle camicie bianche che andrebbero fatte indossare a questi simpatici e putridi personaggi. Beh, addirittura putrido, signor, putrido, il signor, putrido, come si chiama? Putrido, Mandarà, putrido, dai, putrido, su, putrido, dai. Putrido. Comunque, ragazzi, la cosa è incredibile. C'è un signore che, come sapete, è il sindaco di Firenze. Ritardi cognitivi. Con vabbè, no, non stai parlando di Nardella, il sindaco di Firenze, no? No, del coso, lì, come si chiama? Mandala, Mandala. Mandala. Signor Nardella è sindaco Mandala di Firenze, come sai, no? Sì, ottimo, no, Nardella, bravissimo. Potrebbe dirsi anche Mavalà, come Mandarà, Mavalà. Mavalà, Mavalà, come diceva Ghedini, non perché Ghedini è chiaro, Mavalà. Allora, Nardella dice, a proposito della vicenda di Gore e Gorino, che bisognerebbe sanzionare i comuni che rifiutano i migranti. Cioè, se un sindaco... Sì, bravo, bravissimo Nardella. Ma non dire, perché ragazzi, lui ha aggiunto, va, noi come, dai, comune le abbiamo accolti. Quindi sì, ottimo, no, bravo Nardella. No, no, bravissimo, no, Nardella. No, no, Narde... no. Bravissimo. Nardella, no, bravo. No, andrebbero, non so se, sì, tassati... Sei, sembri Brunetta, sì. Bene, bene. O forse andrebbe detassato il comune che li prende, viceversa, no, se no, non vogliamo, ragazzi, tassare. No, no, no. Sì, lui, ottimo, dice sanzionare, perché i comuni che rifiutano. Esatto, esattamente, no, bravissimo, che... ottimo Nardella. Ma è una cosa antidemocratica, che, cioè, un comune ha tutto il diritto di dire, quando no, non vogliamo migranti. Quando c'è un'emergenza nazionale, ma tutto il paese nazionale che si muove, allora, o c'è l'emergenza perché ci sono i profughi o non, ma c'è. L'emergenza è io creata da questi che non sanno, fare il loro, non sanno fare il loro, ma chi, mestiere. Ma chi il li Ministero salva dell'Interno, chi tutti li questi. Ma... No, il Ministero dice c'è un piano per, ma quando, ma... perché l'impatto dei profughi non sia supportato solo da alcune comunità e quindi devono essere distribuiti. Poi arriva il Goro Gorini, il Goro di turno, sì, del paesino Razzistello di ma turno, che è pure un paese di sinistra, 20 ora, persone fanno le barricate perché non vogliono avere delle donne e dei bambini sul loro territorio, allora? E si arriva a questo paradosso, no, che non i migranti vogliono, non vogliono finiscono avere i, e si finisce col paradosso che i migranti finiscono sempre nelle solite città che invece accolgono, tra cui Firenze. Vabbè. Tra cui Brunelleschi, tra cui Firenze, sì, tra cui Firenze. Firenze. Aspetta, allora, un attimo, allora, molto bene fa l'ottimo Nardella a dire, a dire che... sanzioniamo quei comuni che non li accolgono. Tutto, hanno tutto il diritto di non accogliere. Nardella, nessuno, avanti tutto. Allora, però, io abbiamo recuperato, ovviamente, secondo i attraverso i nostri potenti mezzi, il numero di telefono di questa signora che si chiama Roberta Montagna, la quale, ripeto, è una signora come tante altre, Roberta? Però Montagna come le montagne, no? Mm. E il problema vero di questa signora è che non è un'estremista vegana, va oltre l'estremismo vegano, è anche ha una società, credo, ammirandola da quelle parti là. E ha scritto accanto a una foto dove c'è un bambino che mangia una bistecca di carne, ripeto, un bambino che mangia una bistecca di carne, speriamo crepi di cancro da giovane. Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera. Lei si chiama Roberta? Sì, ma con chi parlo? Sì, buonasera, chiamo da Milano, buonasera. Sì, ma... Salve, mi chiamo Giuseppe, Giuseppe Cruciani, buonasera. Quindi? Volevo capire, lei ha scritto speriamo crepi di cancro da giovane sotto la foto di un bambino? Sì, su può Twitter. Può essere? Sì. Sì, può essere. No, può essere, se l'ha scritto, l'ha scritto. Come mai l'ha scritto? Ma con chi sto parlando, per capire? Giuseppe Cruciani. Giuseppe Cruciani. Sì, Giuseppe Cruciani, chi è? Un avvocato? Chi è? Chi è lei? Giuseppe, no, Cruciani. Un giornalista. Un giornalista. Un giornalista. Volevo, benissimo, volevo capire se lei ha scritto questa frase. Non lo posso sapere, ne ma scrivo tante. Se no, lei ce l'ha, mi ma... Scusi, io sono in ufficio, adesso io non so chi è lei. No, lei l'ha scritta o no? L'ha scritta, mi sembra di capire, buona no? Buona serata. Come? Ha chiuso il telefono, state vicente. Intervengo io, va? La roba incredibile. No, no, aspetta, aspetta, che questa non risponde subito. Non risponde subito. Se la chiamiamo subito non risponde. La roba incredibile. Comunque ha confermato, l'ha scritta lei, perché ogni tanto uno potrebbe avere dei dubbi, no? Sai, su internet fanno le copia e incolla, hacker, cose di questo tipo. Gaetano, Bergamo, vai. Pronto? Vai, vai, Gaetano, dimmi. No, io volevo dire, sono anni che vi ascolto e sì, mi sì, siete sempre piaciuti, però c'è un appunto da fare perché a volte mi sento offeso e cambio canale. Ma è possibile vabbè, che succede. È possibile, ascolta, è possibile che se uno chiama e dice cosa diversa da voi, voi pur rispettandolo, dovreste rispettandolo, dirgli che sta dicendo una stronzata. Non può essere per forza indeficiente. Gli dice cosa diversa da quello che pensate voi. E tra l'altro, sì, a volte c'è qualcuno che dice delle cose pur sensate, ma siccome voi vi arroccate su non so quale torre del sapere. Ma non c'è nessuna torre del sapere, dai, amico mio. Non c'è nemmeno. No, ma l'abbiamo ascoltato, figura. Abbiamo ascoltato un commerciante che diceva che l'estrazione di petrolio provoca i terremoti. Questo abbiamo ascoltato. Appunto. Sì, al di là della civiltà e della cosa che viene detta, io dico il rispetto della persona che non sappiamo. Senti, amico mio, ma allora, questa è una trasmissione particolare dove non è che esistono queste cose formali che possono esistere in altri contesti, altrimenti non sarebbe la zanzara, sarebbe un'altra cosa. Sarebbe porta a porta, Matrix o altre cose. Invece non è che è porta a porta, Matrix. Io capisco tutto. Beh, basta, appunto. Ma bisogna capire solo questo. È inutile che fai il furbo, dai. No, no, ma tra l'altro, il signor Parenzo non mi sembra che è una preparazione. Ma cosa c'è? Non è Leonardo da Vinci, ma nessuno qui è Leonardo da Vinci. Il fatto esatto che non sento dall'altra parte del microfono, io non sarò Leonardo da Vinci. Pico della Mirandola. Ma è bravo, non sento Galileo Galilei, non mi pare di sentire Michelangelo. Ho capito, Gaetano, cambi trasmissione. Ecco. Alessandro dalla provincia di Brindisi. No, ma no, ma continua a seguirci. Ma no, ma per cortesia, cambi trasmissione. Cambi canale, ma rotti coglioni. L'idea che ci sia, come si chiama questo? Gaetano, dai, non ha fatto niente. Gaetano all'ascolto Mirita, ma no, ma canale. È una piccola critica che facevo, dai. No, ma non voglio che sia, cioè il fatto stesso che Gaetano ascolti questa trasmissione mi rende nervoso, mi può rendere nervoso. Alessandro, provincia di disturba. Voglio che l'ascolti solo Salvatore Settis questa trasmissione. No, solo carità. I colfi, solo Galli della Loggia. Ma no, solo per carità, no. Non voglio più miserabili all'ascolto. No, no, no, fine. No, no, no, fine, no, fine, fine. Fine Massimo da Fermo, fine Simone da Monza, fine Alessandro da Brindisi, Agatino da Catania, poi Agatino, che cazzo è Agatino? Massimo da Fermo, Agatino, basta, ma scusa, basta, ma Sant'Agata è credo una santa di Catania, famosissima. Non voglio questa gente Agatino, che io l'ascolto. Scusa, voglio Alessandro, selezionare Agatino, il pubblico. Settis, Salvatore Settis. Agatino, che vuoi dire a Parenzo, scusa? Beh, innanzitutto non c'è motivo di insultare. Ma no, ma voglio dire, ma no, per carità, sì, ma Agatino, sì, effettivamente la parola Agatino, il nome Agatino, per caso, il nome Agatino è un po' particolare. Parla di ignoranza e manifesta tutta la sua ignoranza, non conoscendo un nome così importante. Agatino, beh, Santa Agata, Agatino, certo, non è bello chiamarsi Agatino. Se a me chiamassero, se io fossi chiamato Agatino, mi renderebbe, devo dire, fosse una piccola Agata. Devo dire, sì, se a me mi avessero chiamato, ma non si è fatto, scusato. Va bene, sì, se mi avessero chiamato Agatino, sinceramente mi sentirei a disagio, devo dire la verità. Ha perso un'occasione di scusarsi. Comunque andiamo avanti. Molto educatamente vi chiedo. Io, oltre a chiamarmi Agatino, sono anche cristiano, cattolico, apostolico, romano. E vabbè, pazienza, ognuno ha i suoi limiti nella vita. Cosa vuol dire? Cattolico, va bene, apostolico e romano. Sì, sì, vabbè, sai. Ma se sta a Catania. Volevo chiedervi solo. Solo comunque se potete darmi questa risposta. Sì, sì. Visto e considerato che attaccate sempre il Santo Padre, la Chiesa. Ma nessuno attacca nessuno. Allora, i preti non accolgono nelle loro chiese, come quel prete di poco fa, non accolgono nelle loro chiese gli immigrati. Vorrei sapere, la comunità ebraica e la comunità musulmana, nelle loro moschee, nelle loro sinagoghe, quanti immigrati accolgono, dove e in che misura? Ma guarda che la realtà è questa, che non è che c'è il capo, grazie Catino, però non è che il capo degli imam italiani ha detto venite tutti gli immigrati, né il capo delle comunità israelitiche italiane. C'è il Papa che si è espresso a favore dell'immigrazione qualche tempo fa, mi sembra, no? L'accoglienza, l'immigrazione. A due giorni dal terribile terremoto di Amatrice quest'estate, quando sono stato lì, quest'estate. Che c'entra il terremoto adesso? Ti dico che ho visto dei volontari dell'Associazione Islamica Italiana che erano andati lì ad aiutare i soccorritori. No, per dire fermo che. Fermo lì. Sì, io vedo molto negativo. La zanzara. Non scordatevi il numero del cuore, 393-71-71-701. Oh, caro David, oggi ho visto una foto pubblicata, credo, sul profilo. Sai, ormai ce ne sono tanti, uno si confonde, Instagram, Facebook, Twitter, non si capisce niente. Da parte di Roberto Giachetti. Signor Roberto Giachetti, come sai, è stato candidato sindaco di Roma. Sindaco Roma è vicepresidente della Camera, cioè ha un ruolo importante. Non c'è dubbio. Signor Giachetti, Partito Democratico, era disteso, credo, sul suo letto di casa, sul divano, adesso non ricordo bene, ed aveva una canna. Beh, ottimo, non una canna. Una, no, per cui a me lo dici. Io non me le fumo le canne, però sono niente di strano. Non mi pare drammatico. No, beh, però c'è un mi pare fatto. Più drammatico quello che è avvenuto a Goro, ad esempio, con ma che hanno fatto bene razzi, quelli. Mi pare terribile quello quelli che è avvenuto. Quelli non sono razzisti, sono cittadini che non ne possono più della gestione attuale dell'immigrazione. Non ne possono più e si ribellano contro Alfano, Morcone che dice che devono andare in Ungheria. Vergogna, vergogna. Innanzitutto, vergogna il prefetto Morcone che dice questa roba qua. Comunque, che c'entra? Perché mi hai riportato su Goro? No, ho detto che mi sembra molto grave quello che è avvenuto a Goro. Non è un deputato che fuma una canna e che però per la legalizzazione delle droghe leggere è vicepresidente della Camera e chi se ne frega, c'è quindi raccolta, è una battaglia per la legalizzazione delle droghe leggere. Sì, lui è a favore, c'è la raccolta di film, eccetera. Allora, voglio capire da Maurizio Gaspari, che è il collegamento tra noi. Maurizio, come stai? Buonasera, buonasera. Io sto bene, tu stai bene perché c'è ancora lì cosa... Nostro Parenzo, no? Questo è imprescindibile, come dire. Finché, Parenzo, finché la Bignardi non lo chiama per andare al posto, al posto di al posto di signor Semprini, prendere al posto di Vespa direttamente da grande. Sì, però non c'è del ferro qui da toccare, quindi no, devo perché vorrei andare al posto di Semprini, vorresti andare al posto di Semprini, non te lo consiglio, ma non ho te lo detto consiglio. Che tutto quello che viene raccomandato qui in genere si trasforma. Andare al posto di Semprini, tanto meno di Semprini, neanche io e lui lo faremo. No, credo che io credo che se Gaspari da solo fa una trasmissione, credo che potrebbe fare più del signor Semprini, secondo me, Io ma non c'è dubbio, scusi, ma dico, se mi consente, voglio se dire. Da solo, cioè Gaspari pari a condurre fa meglio di Semprini? Beh, io ho più parenti e elettori di quanti spettatori ha già Semprini. No, voglio dire. No, però Semprini, anche Veltroni, Rai, anche Veltroni, allora, ecco, Veltroni. Adesso è posseduta in questo senso da un virus di favorire la concorrenza. Sì. Perché fanno Veltroni 10%, 11%, due puntate sabato sera in prima serata. Un milione a puntata. Pippo, Pippo, un milione a puntata di costo. Magnolia, Gori, produttore, fondatore di Magnolia, già consulente e che c'entra amico di Renzi. Questo che vuol dire che c'è un conflitto di interesse. Conflitto ma, ma non è più, si è dimesso. Non è più. Si è dimesso è da tempo. Fondata, ma che c'entra no? Che è il fondatore? Ma si è dimesso dalla, dalla si sua dimesso. Società Magnolia per fare il sindaco ancora anni fa. Si è dimesso, benissimo. Non ha più nessuna carica, né nessun profitto, né nessun ruolo. Veltroni che è l'ideatore, io ho chiesto alla Rai di sapere quanto ma perché deve dire così in esatto? Cioè, questa è dico attraverso la zanzara, sì. Walter, non ti vergognare, hai lavorato, è stato un flop. La Rai mi ha già risposto in questo modo, non lo paghiamo noi, noi paghiamo Magnolia, sai come funziona, uno compra il programma beh, sì, questo è normale. E paga la produzione. Allora io vorrei sapere da Veltroni quanto di questo milione a puntata che va a Magnolia prende lui, che sarà una piccola parte, ma ce lo dica. Poi hanno messo Pippo Baudo la domenica. Sa quanto fa Pippo Baudo? Il 10% anche lui la domenica. Poi dopodiché possiamo continuare con Politic 2,6. Ma perché Pippo Baudo pure del PD? Beh sì, certo, non no, è lontano dal PD. No, fa male. No, ma non è... Ma... No, ma ho capito, ma questo d'accordo, ma perché Pippo Baudo è targato pure quello Renzi, PD, eccetera? Ma no, sono cose scadenti, insomma, no? No, ma al di là della scadenza, Pippo Baudo è politicizzato pure lui, non credo, o sì? Beh, Pippo certo, Baudo, qualche è simpatia andato. Per il PD ce l'ha, è andato. È politicizzato, è andato, è andato. Poi tanti si lamentano che i politici sono logorati. E questi della televisione sono logoratissimi. Ma Pippo quindi Baudo dice che muore senza televisione, senza stare in televisione muore. L'importante è che non faccia morire Rai 1 per i bassi ascolti. Cioè lui, per non morire lui fa morire Rai 1, lui e Veltroni la stanno uccidendo. Campo dell'Orto, ma chi ti paga? Camposanto, detto da Dago Spia, Camposanto dall'Orto. Camposanto dell'Orto, ma sei un dipendente ancora di Cairo o di Mediaset che stai ammazzando cioè, sembra un dipendente delle altre aziende. Io voglio difendere la Rai dal trionfo della concorrenza che è Campo dell'Orto. Guardi, perfino i medici, che è una produzione impegnativa e grossa, ha perso 3-4 punti da una settimana. Vabbè, ma quello mica sarà colpa di Camposanto dall'Orto, come dice no, Dago voglio Spia. Dire, quella è andata bene la prima puntata, è andata bene anche la seconda. Diciamo, vabbè, ma queste sono cose televisive. Però hanno perso 3-4 punti, cioè stanno ammazzando. Allora, Campo dell'Orto e Renzi stanno ammazzando la Rai. Vabbè. E vedremo, vedremo che succederà. Ma la Rai non muore mai. Figura la Rai là, finché non viene privatizzata, non muore mai. Però ecco, è il vicepresidente della Camera che fuma uno spinello. Come lo vedi tu, caro Maurizio? Cioè... Ma guardi, allora, io, non è, per me non è una sorpresa. Io credo che sia stato un gesto molto da sconsiderato. Vantarsi addirittura. Perché anni fa, siccome non è la prima volta, Giachetti sì, ha sempre volte, detto anche di alla Camera. Sì. E a volte io mi ricordo quando io ero deputato prima di andare al Senato, anche in aula, lo ricordiamo era fatto, quando era fatto. No, gli ricordavo qualche volta questo suo comportamento di cui si è sempre vantato. E scherzosamente un po' dicevo se appunto alcune sue affermazioni, parlo di diversi anni fa, non fossero dovute a questo tipo di abitudine. Devo dire, adesso facendo in più serio, al di là delle battute, no, ma veramente qualche volta ti sembra fatto? La cannabis fa male. Vabbè, ho capito, ma uno, studi scientifici, ma se uno si ammazza di, ma se uno si ammazza di canne fa male, non è che uno sì, se il messaggio che passa, uno che ha una carica istituzionale che poteva addirittura fare il sindaco di Roma, che quella che c'è sia molto meglio, non so se faccia uso cioè, di cannabis è peggio. O se fa la lotta ai frigoriferi in condizioni nature senza additivi, insomma, cioè, non so se la Raggi dice le cose che dice al naturale o se usa qualcosa. Cioè tu mi stai dicendo che per dire quella cosa dei frigoriferi secondo me sarà fatta una canna, una che dice che c'è il complotto, che i frigoriferi li scarica la posta i poteri forti, cioè se avesse preso delle sostanze stupefacenti era almeno una giustificazione, se invece come penso non le usa, perché mi pare almeno da questo punto di vista una persona assolutamente normale. Vabbè, non è che è anormale chi si fuma le canne, però, Mori, non è però che uno... il comportamento, guarda, Luciani, tu sei contro le droghe, quindi questo ma io, è un merito. No, io non sono contro le droghe, io sono a favore della legalizzazione, però appunto, diverso. Diglielo, cioè, mica, ma io l'ho detto mille volte, io no, sono a favore... Ma hai sempre detto che fa male. Ma certo che fa male, io ho detto, io ho detto che fa male. Ma no, ma al contrario, male, è appunto per quello. Perché ma anche Gasparri fa male, pure non è che uno lo vieta. Però a me se non mi vuole votare, non mi vuole sentire, non mi vota o non mi chiama. Ma è anche quello, se uno la droga non la vuole prendere, non la prende. Beh, però bisogna dire che è dannosa, perché il tetraidrocannabinolo, che è contenuto nella cannabis, e oggi ce n'è una quantità molto mi stai dicendo che è una specie di spacciatore, Giachetti, potrebbe essere accusato di... È un propagandista di una sostanza che fa male, quindi è un atteggiamento inopportuno, contrario anche ai principi e alle norme. Perché mettiamolo sotto accusa, ma come contrario alle norme? Ha violato delle norme? Ma dai, allora, promuovere l'uso delle sostanze... È un reato, è un reato. E quindi lui fa apologia di cannabis. Di cannabis. Mentre l'uso personale non viene penalmente. Ma quello è per la legge, per promuovere la legalizzazione. Aspetta un attimo, aspetta. Capito, ma la legalizzazione è sbagliata anche lei. Aspetta, aspetta. E anche dalla Siberia ascoltiamo la zanzara. E dalla Siberia mi ascoltiamo la zanzara. La zanzara. Bruciate, volevo dire, sono un po' di giorni che si parla di cose troppo serie alla trasmissione, troppo serie, non può essere, e sti cazzo di immigrati, e Renzi, e la politica, ma vaffanculo, io voglio tornare a parlare per la gioia di Parenzo di inchieste intellettuali, di materie filosofiche, ad esempio, quanti italiani si scaccolano? Quanti ascoltatori della zanzara si infilano le dita al naso per eliminare quelle maledette caccole che ci danno un fastidio terribile? Io è da quando sono piccolo che lo faccio e adesso ho 23 anni e non ho mai smesso di scaccolarmi. È una goduria, è il top. Allora, devo dire che questo ascoltatore però dovrebbe seguire, oltre che questa trasmissione, caro Parenzo, anche di martedì sulla 7. Che come sapete si è specializzata nel raccontare l'igiene dei luoghi pubblici. È un tema fondamentale, come sai, l'articolo della Costituzione che parla del diritto alla salute, che non verrà, come dire, toccato dal referendum. Tu ti rendi conto che a un certo punto per fare gli ascolti, le trasmissioni si occupano dei liquidi seminali dentro le cabine per fare le foto. A te dovrebbe interessare in particolare, visti quei postiboli che frequenti. No, ma è incredibile questa cosa qua. Ma comunque siamo in collegamento col vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, stiamo parlando di legalizzazione delle droghe leggere. Io sono a favore di tutte le legalizzazioni, però una sola cosa, Maurizio, tanto la sappiamo la tua posizione su questa cosa qua. Sì, ma non è la mia, è una posizione giusta, perché quella è giusta, non è che è giusto o sbagliato. No, è giusta, però, perché fanno un danno alla salute. Ho capito, ma tanto esiste sempre. È un irresponsabile. Ma tanto esisterà, la gente se le procura lo stesso le canne. Ho capito, pure la mafia c'è, ma la dobbiamo combattere. Ma scusa un attimo. Quelli che rubano e scippano le vecchiette esistono, allora siccome esistono li legalizziamo. Ma no, ma non è la stessa cosa, dai, ma non è la stessa cosa, no. Perché recano un danno al prossimo. Ma scusa un attimo, tu hai una figlia? Hai una figlia o sbaglio? Certo. Quanti anni ha? 19 anni. 19. Se la sarà fatta una canna in vita sua o no? No, spero proprio di no. E se la fa, che succede? Non me ne ha mai parlato. Se la fa... Ma gliene parlerei e cercherei di dirciaderla a farlo, come io cerco tutte le settimane di mandare persone nelle comunità terapeutiche. E quindi io sempre aiuto persone a uscire, sì, d'accordo, quando però chiedono da questa tragedia. No, ma d'accordo, però grande, se tua figlia si fa una canna non è una cosa grave, a 19 anni, d'altro, secondo me sicuramente se l'è fatta. Per fortuna non se la fa, penso non ce la sia mai fatta. Pensi, appunto, parlato, pensi. E quindi, ma io penso di essere abbastanza, ma comunque parlerei, ma io con le persone, non c'è bisogno di fare sempre di mia figlia. Ma tutte le persone in Parlamento, conosco, secondo te, in Parlamento quanti ce ne sono di persone che si fanno le canne? Ma è un discorso che si è sempre detto, ci saranno persone che ma se tu le hai visti? Lo qua... ce ne saranno, ah, no, non le ho visti. Non vedo visti. Alcuni comportamenti anche al Senato e alcuni che mi sembrano a volte, come dire, sotto effetto, non di sostanze cannabis, in generale, di sostanze sì, anche più eccitanti. E perché? Cocaina. Addirittura. Dai comportamenti, alcuni hanno degli sbalzi umorali francamente singolari, quindi basta seguire. Ma in che gruppi parlamentari? Seguite i lavori parlamentari e ve ne accorgete. Ma in che gruppi parlamentari? Questo è interessante. Gruppi parlamentari di opposizione. Di opposizione, che vuol dire? Cioè non... che hanno, insomma, seguite i lavori parlamentari. Che ne so, manda i grillini, ti stai riferendo ai grillini? Tu manda uno per una settimana a seguire i lavori parlamentari e troverete sicuramente qualche caso che merita approfondimento. Cioè, cocainomani al Senato. Tant'è che io sono favorevole a quella sfida pubblica, popolare che si è sempre fatto sullo screening, che mi sono anche sottoposto quando... Cioè, secondo te c'è bisogno perché in Senato ci sono cocainomani? Sicuramente in Parlamento ci sarà una percentuale statistica di persone. No, però stai dicendo che i tuoi colleghi parlamentari del mondo dell'opposizione sembrano alterati quando fanno... Alcuni hanno dei comportamenti che secondo cocaina, me... Sono... È come il discorso che dicevo prima, la battuta sulla Raggi. La Raggi secondo me è persona assolutamente immune da un no, ma quella è appunto... Ma dice delle fesserie che forse vabbè, potrebbe giustificare dicendo... No, ma in questo caso no, tu stai dicendo una cosa molto semplice. Stai dicendo allora, che tra l'opposizione... Mille parlamentari. Sì, ma ti riferisci ai grillini, secondo me. Ti riferisci ai grillini. Dai, ti riferisci? Ma non mi riferisco a nessuno. Ma all'opposizione, hai detto, chi sarà l'opposizione? Allora, mica ma saranno... fare, o fate uno sgub, come diceva. Qual è lo sgub? Qual è lo sgub? Vi mettete in tribuna, vi fate dare. Allora, che io non è che solo da quello si capisce se uno è cocainomano o no. Lo vedi dai comportamenti, io vedo dai sbalzi morali. Poi può darsi che uno sia solo nervoso. Però insomma, ti sto no? dicendo che, tra l'altro, tu al referendum voterai insieme a questi qua. Io ti, allora, tu, Gaspari, al referendum vota a Di Battista, Fiorella Mannoia, Moni Ovadia, la sinistra estrema, pure, Rifondazione Comunista. No, ma per dire. Berlusconi, pure Cesa, pure La Russa, pure Malan. Vabbè, quello sicuro, pure che c'entra. Ho capito, però. Pure Romano. Grillo. Pure Brunetta, ma i referendum dividono in due lo schieramento del paese, il sì o il no. Ho capito. Non è un'alleanza. Senti, per governare. Ci sono stati, Maurizio, torniamo a scherzare un po', ci sono stati... Ma scherzati. Pure i tifosi della Roma o i tifosi della Juventus, che vuol dire? Ci saranno persone che tifano la stessa squadra e hanno idee diverse. Non facciamo un governo votando il referendum. Beh, ho capito, però... È una coincidenza di valutazioni momentanee. Momentanee, che non... indica nessuna alleanza ma no, ma per grazie, governare il paese. Senti un attimo, si sono sposati recentemente, credo in Campidoglio, proprio a Roma, dei militari sposati, diciamo, gay, no? Bello, uno in divisa, un poliziotto in divisa c'è stato. Un poliziotto. Dirò, come dicevano gli antichi, o tempora o mores, che non cioè? È una cosa contro gli africani, vuol dire o tempi o costumi. Quindi il costume di questi dei no, ma secondo te un poliziotto gay si sposa in divisa, fa onore a quella divisa in comune, con la divisa da poliziotto. Sinceramente, ho altre idee, altre obiettivi. No, ma è un esibizionista questo qua. Ma adesso lui dirà che rivendica i suoi diritti, eccetera. Una volta c'era, come dire, un pregiudizio, oggi non c'è più un pregiudizio. Auguri, speriamo che faccia bene il suo lavoro. No, però vabbè, ma il fatto di andare a sposarsi con la divisa, se magari la cosa ti ha... Ho detto, o tempora o mores, lo trovo, diciamo, un sintomo dei costumi dei nostri tempi. O tempora o mores. O tempora o mores, è un commento un po' moralistico. O tempora o mores. Detto questo, mi auguro che quel poliziotto, se deve intervenire nell'ordine pubblico, se deve intervenire in uno scippo, se deve... possa svolgere in e perché non dovrebbe piena la sua perché non dovrebbe spero, no? Perché speri, scusa, non ho capito che c'entra col fatto che è omosessuale. Spero di sì, totalmente nulla. Sarà giudicato per come vabbè quello mi pare meno male, te credo. Meno male, speriamo che lo svolga bene, no? Che ne so, senti, che ma il prefetto Morcone, che è il braccio destro di Alfano, ha detto prefetto che gli abitanti di Gorino devono andare in Ungheria. Gli abitanti Guarda, di Gorino devono essere spediti. Una battuta giusta, irresponsabile. Eccola, ha parlato. Alfano guadagnerebbe 5 punti di consenso se lo mettesse alla porta. È stato un candidato trombato del Partito Democratico al Comune di Napoli alcuni anni fa. Sì, ma non dopo essersi schierato in un partito, ma cosa è ritornato c'entra? Il giorno dopo in una posizione istituzionale, dopo che si era manifestato uomo di parte. L'Ungheria è governata da esponenti del Partito Popolare Europeo, da un grande politico come Orban, che uno come Morcone lo caccerebbe dopo due secondi. Orban è un grande politico, e oggi che Gentiloni ha offeso i governanti ungheresi, io sto dalla parte del ministro degli esteri ungherese. Io pure sto dalla parte dell'Ungheria, sempre, ha apostrofato l'Italia, che porta clandestini dal Nord Africa tutti i giorni, poi li fa andare in tutta Europa. Viva l'Ungheria, abbasso il governo Renzi. No, ma scusami una cosa, però modello ungherese adesso, scandalosa, è una vergogna d'Italia. Uno come Morcone dovrebbe andare, io dove? Domani andrò a Foggia, in quel campo abusivo che è sorto accanto al CARA, vado a visitare il CARA di Foggia, e fuori dal CARA di Foggia alle 11.30 andò per denunciare lo sconcio di un campo abusivo dove centinaia di extracomunitari. E che deve fare Morcone? Che deve fare? Dovrebbe chiudere queste strutture. Morcone è una persona razzista. Perché alimenta tutto questo vivere male di questi stranieri. No, vabbè, ma ha detto una follia, Davide. È uno dei pochi prefetti Morcone che si trova, come dire, in zone. Ma è uno dei. Ma scusami, aspetta, Maurizio, scusa. Ha fatto una battuta anche Morcone. Ma che battuta? Ma quale battuta? Parlava con De Vaine. Morcone si riuniva con De Vaine. Ma chi c'entra? Ma che ne sapeva? Ma gabinetto. Ma chissà con quante persone ha parlato lei, ma che c'entra? Ho chiesto che cosa si diceva con Odevaine. Vabbè, comunque cosa parlava Morcone con Odevaine? Ma che ne sapeva di quello che faceva Odevaine, Morcone? Scusami, ma che modo è? Odevaine faceva la spartizione con Butti. Ma mi stai dicendo che Morcone... Ma sarebbe come se qualcuno ti dicesse Gasparri parlava con Alemanno, e Alemanno era il sindaco di Roma, che è finito nella vicenda di Mafia Capitale. Assolto. Ma scusami, d'accordo, ma uno... L'accusa di ho capito, ma uno ti può dire. Io parlavo di politica. Ma uno ti può dire che si dicevano Gasparri ed Alemanno? Parlavamo di politica. Però scusami un attimo. Che parlava? No, però ragazzi, dobbiamo chiudere. Che parlava? Parlava di che doveva parlare. Morcone è una persona incapace. Vabbè, questo l'abbiamo già detto. Che dovrebbe essere rimosso. Cacciare Morcone è un'emergenza democratica. Addirittura, che è successo? Un razzista. Addirittura. Questo degrado nei centri del CARA e anche nei centri abusivi. Io domani andrò a Foggia. Va bene, Maurizio. Poveri foggiani. Maurizio, ti voglio chiedere una cosa. Vabbè, ma ho capito. Morcone caccia. Liberaci da Morcone. Liberaci da Morcone, bene. Liberaci, no Samaro. Pensa com'era. Foggia domani. Morcone è quello che vuole più immigrati in Italia per farli vivere male. Quindi fa una politica razzista. Senti. Noi vogliamo invece più italiani tutelati in Italia e non 10.000 clandestini al giorno. Senti. Morcone aiuta gli scafisti libici. Sì, addirittura è uno scafista pure lui, cioè complice degli scafisti. Aiuta con la sua politica. Gli scafisti. Senti, ma i morti che ci sono stati ulteriori non scherziamo. Di scafisti e di chi li aiuta, non scherziamo. Colpa anche di Renzi, ma non scherziamo che il governo si trova ad affrontare l'emergenza dell'accoglienza. Non scherziamo, per forza, su questi temi. Alimentano l'attività. Ma come si fa a dire che alimentano gli scafisti? Li vanno a salvare. Ma come fa? Ma che dite? Ma perché secondo lei gli migranti vengono qui perché se sentono Renzi? Renzi ha sulla coscienza e morti, ma no, io non ho capito. Ma secondo lei, ma guarda che incredibile Gasparri. Cioè, secondo Gasparri, se ci fosse Gasparri al governo, i migranti non verrebbero più qua. Sì, sicuramente sarebbero disincentivati. Sicuramente, sapendo che c'è Gasparri, avete fatto una sanatoria pazzesca. Maroni fece la più grande sanatoria sui per fortuna sui migranti. E non abbiamo fatto la pensa a te. Vabbè, ti posso chiedere una cosa? Che ne pensi di Maometto? Ma rispetto tutto, leggo sulla rete tutte queste accuse su Maometto che aveva mogli giovani e altre cose, però francamente mi preoccupa il fondamentalismo dell'Islam. No, ma sulle donne, Maometto, che personaggio era secondo te? Cioè, ha ispirato. Io leggo cose molto critiche perché si accompagnava a persone minori. Cioè, è un pedofilo secondo te? Mogli. Ma ho letto sulla rete, non uso, vedi, io non voglio offendere la religione altrui. Vedi, però anche lui è meno su questo. Non andare al Colosseo a dire che a Roma non li facciamo pregare. Hanno la moschea più grande dell'Occidente a Roma. Noi non abbiamo le chiese nei paesi islamici. Invece di andare, perché noi siamo al civili, Colosseo infatti. A minacciarci. Ma perché ci dobbiamo paragonare con teocrazia? Non ho capito. Vadano nella moschea che hanno a Forte Antenne a Roma. Ma li ci mancherebbe altro. Pregare quanto vogliono. E certo, ma ci mancherebbe altro. Offendere. Va bene. Pregando in maniera minacciosa in un luogo. Ciao Maurizio. Ma dov'è che offendono? Ciao, cos'è Maurizio, che offendono? Ah, perché il Colosseo è un luogo della cristianità. Ciao. Il Colosseo è un luogo della cristianità. Ciao. Crociani, è il mio terzo giorno senza lavarmi. è bellissimo. La Zanzara. Hanno fatto bene a fare quella rivolta, non bene, benissimo, anzi proprio perché sono lontano, se no mi andavo a mettere pure io con il pullman lì davanti, mi andavo a mettere pure io con il pullman, perché hanno rotto i coglioni, prendono decisioni dall'alto, 10 qua, 15 qua, la benevolenza, dobbiamo aiutarli, è sempre in periferia, sempre in culo ai lupi li vanno a portare, ma perché non li mettono nel centro di una città, porca di quella puttana, nelle piazze più importanti, davanti al Duomo, fanno una bella tendopoli davanti al Duomo, fanno una bella tendopoli davanti al Colosseo, eh no, devono sempre rompere a noi, coglioni in periferia, vero? Sto Parenzo del cazzo! Parenzo, ma i tuoi amici di Capalbio, con i Negretti, come si sono comportati? State dicendo un sacco di puttanate. La gente sa benissimo che tutta questa messa in scena delle, dei prof, delle cose, alla fine se la devono sobbarcare loro, se la sobbarcano sempre i cittadini. E la politica se ne fotte e tutti si sono rotti i coglioni, perché ci devi, tutti i giorni ti devi sobbarcare già un miliardo di cose. Dateci pure dei razzisti. Marenzo, questa sera vengo a dormire a casa tua. Non capisco perché tra un traffico e l'altro c'è di mezzo la Zanzara. Non si potrebbe fare tutto traffico. La Zanzara. Io lascio qui questa dichiarazione perché avete detto che bisogna lasciarla in vita. Io voglio essere cremato e le ceneri le dovete buttare sulla testa di Parenzo. Allora ragazzi, io sentirei innanzitutto Laura da Milano. Vai Laura. Sesso. Dimmi cara, dimmi. Se posso parlare di sesso? Certo che puoi parlare di sesso, bisogna parlare di sesso. Io Michele, parlerei di non referendum, è necessario. No, visto che si no, avvicina la data. Ma che me ne frega, che me ne frega. Vai Laura, di sesso. Di sesso non in termini volgari. No, io volevo semplicemente dire questo. Io non sono stata a letto con molti uomini. Ecco. Cioè, quanti anni hai, scusami Laura? Io ho quasi 45. 45 anni? Cioè, sta dicendo che hai trombato poco, diciamo. No, ho trombato il giusto, ecco, perché pochi uomini, e lo dice buoni, in diretta alla radio. Hai detto tu che non sei stata non sei stata con molti uomini. Vabbè, no, non sono. Quanti stata, sono stati? 5, 6, 4, 5, quanti? Ma forse una decina. Ma una decina, vabbè, dai, insomma, adesso non è che non è nemmeno una tragedia. Numeri, no, cifre, quello cosa. No. Cioè, ti senti insoddisfatta, questo voglio dire? No, assolutamente no, anzi io volevo dire che nonostante io sia stata con pochi uomini, sì, erano concordi, sì, nel definirmi una grande puttana a letto. Questo è buono, eh? Questo mi è buono. Dicevano, tu ho sei capito. Una santa perché in apparenza sembri una ragazza per bene. Però Laura, mi perdoni, una scusa. Aspetta, fai alla finire, che hai detto, scusa, sembri una ragazza per bene, però... Però sei veramente una grande puttana a letto perché... Cioè una gran porca, ti dicevano. Che esatto, ti dicevano? Perché io non ho paura di sperimentare. Mi hanno chiesto di fare cose anche strane. Tipo? Ecco, lui ti chiede. Ecco, tipo, per esempio, c'è così, stata una persona che mi ha detto: Chiara, io vorrei che tu quando urini in bagno, io te la toccassi. Vabbè, ma quello è normale, dai. Sì, non lo so, però io non certo, ci sono. Io ma non è tutto ci sono normale, riuscita. Ma figuriamoci, ma certo. Ma quello è normale, ma assolutamente. Quello, no, chiunque. Perché lui diceva, ma detto, perché così creiamo un contatto un po' sì, più intimo. Però ti giuro, più Giuseppe, intimo, io... certo, più intimo, ma è normale. Più, però io ti giuro. Si tratta del famoso pissing, Parenzo, cioè non so se tu capisci questa parola. Comunque va bene. Sì, sì, sì. Laura sta dicendo che di fronte a questa richiesta che le è stata fatta, giusto? Io Laura, sì, scusi, io va bene. Scusi riuscita. Laura, non c'è riuscita, però non c'è riuscita. Io Laura non pretendo che lei chiami la radio del Sole 24 Ore chiedendo informazioni sulla flat tax. Non pretendo che lei aspetta, fallo finire Laura, poi che lei chiami chiedendo le ragioni. dei mutui subprime. Io non pretendo questo. Lei può chiamare, insultare, fare, no, ma telefonare, ma telefonare e scendere nel dettaglio di quello che le piace fare nel suo letto, dando nome, cognome, città dalla quale chiama. E quell'altro che dice: no, ma questo è normale, ma è evidente. Ma è una cosa normale, ma tutto scusi, normale. Ma, ma non è normale dirlo alla radio. Ma è normalissimo, pubblico, è normalissimo. Con tutti i suoi fidanzati che si vergognano, la sua famiglia che dice: ma Laura, ma davvero si faceva toccare la bibita dal suo fizzo? Ma cazzo, va bene, signor Parenzo, io lo dico. Signora mia, io sono rimasto, sono basito alle 20 e 22. Ma signora mia, vada da uno psicologo, da uno psicoterapeuta. Ma perché telefona in diretta per dire questa roba? Ma diglielo forte, chiama Laura, diglielo forte, Laura, diglielo forte. A me piace il cazzo, mi piace prenderlo in bocca. Basta, ma che roba è? Ma va bene se è così, ma perché dobbiamo nasconderci nelle donne nel dire certe cose? Perché lo devono dire solo gli uomini? Ma se lo tenga per sé, perché deve rendere questa roba così volgare? Quando chiama ma Carmine, ma chi è Carmine? Non Carmine, è Voltaire, Carmine. Come lo è un altro Giuseppe. Cretino, è un altro smandrappato che non ha una vita e che chiama qui per dire queste porcherie. Posso dire solo una cosa, ancora più di quello che ha detto delle porcherie inenarrabili alle 20:23. Ho detto delle porcherie, ma che porcherie mi sentivo di dire, sono orgogliosa di averle dette. Ma orgogliosa di che cosa? Orgogliosa, ragione, io mi vergognerei a essere un parente suo. E non si vergogna. Ma io sono orgogliosa di dire che a me piace fare sesso, piace fare amore. Ma ho capito, ma lo dica ai suoi fidanzati, non lo dica alla radio. No, ma la cosa è, lei voleva adesso dire. Cosa lei scrive vole... qua Robert lei... Cannuna? Lei... Ma che scrivi anche tu, tu? Ti prego, salvami tu, Giuseppe, salvami Laura, tu. Laura, io sono con te. Dammi il mio numero a questa Cannuna. Ma Cannuna, giustamente, da Israele vuole il numero di Laura. Ma che ti ha voglio detto... bene, fratello, mi ma sei certo. mancato. Ma scusa, questo è pazzo anche questo, ragazzi. No, perché Laura ha detto una cosa molto semplice, rifacendo sia la parola porca, no? Che uno dice un'offesa. A me me l'hanno sempre detto, Giuseppe, me l'hanno sempre detto. E tu sei giuro. Orgogliosa di essere una porca? Mamma mia. Io a letto sì, perché allora io ti dico la ma verità. Ma non può essere se a casa dicono, sua sei una senza puttana, sei una puttana. Ma io non lo metto in discussione. Che me lo dicano, ma magari me lo fermo, dicessero. Fermo, che abbiamo recuperato di nuovo, siamo di nuovo Cannuna recuperata. No, quella là, la super vegana. La super vegana che ha detto che no, è contenta. No, chiama Cannuna che vuole intervenire su questo. Aspetta, che c'è la super vegana che ha detto è libero adesso. Che ha detto quella cosa là, il bambino che deve morire di carne. Pronto? Scusi il collega, guardi, sono Parenzo, buonasera intanto, mi presento. Mi manca proprio Parenzo. Sì. Fede, sono i tuoi amici, quelli che ascolti sempre, te li vuoi parlare tu? Sì, no, chiedo scusa signora per la veemenza con la quale il collega Giuseppe Cruciani ha provato a porle una questione per noi esiziale, ma le chiedo perdono perché è stato davvero maleducato e inopportuno e quindi volevo come sempre il suo esattamente, collega, esattamente, il suo collega esattamente, è sempre maleducato e inopportuno. Quindi per questo volevo chiederle scusa. Volevo chiedere. Bene. Ci ho detto però una piccola considerazione. Come mai lei su Facebook ha postato la foto di un bambino che mangia carne? Non ho postato niente, l'ho postata ecco, io. Mi spieghi allora con grande calma. Io faccio parte di un gruppo di vegani. Sì. Il gruppo è stato hackerato con furto di identità. Sì. Coloro che hanno hackerato il gruppo hanno postato queste foto che non è solo quella del bambino, ma svariate. Svariate, sì. Dopodiché io ho commentato sotto con quello che ritengo. Cioè lei ritiene che se un bambino mangia carne debba morire di cancro, giovane? No, io ritengo che chiunque rubi l'identità in un gruppo e posti la foto di un bambino di sua conoscenza, perché non lo conosco io, quindi può essere suo figlio, può essere suo nipote, la posta lui. Quello che spero è che le persone che hanno creato questo gruppo non arrivino a Natale. Io l'ho chiamata con tutte le buone intenzioni. Certamente. Ma! E qui chiamo in causa il signor Cruciani che giustamente... ha avuto l'idea di interpellarla. Prego, professore. Scusi, signora, io non voglio litigare con lei. Non voglio litigare, no? Assolutamente. No, perché lei di solito con tutti quelli che sono vegani. No, assolutamente. Io sono amico di un sacco di sono amico di un sacco di vegani, figuriamoci. Ah, sì, ed è per quello che lei porta i conigli vivi e li spella direttamente in trasmissione. Beh, i conigli erano morti. I conigli morti, erano morti. Ma li ha spellati in trasmissione. Non li ho non spellati. È una bella cosa. Non li ho spellati, erano già stati spellati, signora. Beh, non è comunque una bella cosa. Ma no? Non è una bella cosa. Questa è istigazione all'odio. Ma non è nessuna istigazione all'odio perché il coniglio viene mangiato nelle case degli italiani tranquillamente, senza problemi. Certamente. Finora. Se lo mangia perché gli piace mangiarlo e non fa apposta per provocazione, non mi interessa. Però, scusi, se lo fa per provocare mi interessa. Sì, va bene. E io commento. Scusi un attimo, lei ha commentato anche: speriamo crepi di cancro da giovane. Ora, lei non, sì, non mi può dire allora, che la di tanti, sì, da... di tanti. Cioè, se lei cerca sul mio profilo, vedrà che di per tante cose troverà, sì, questo augurio. Perché allora, me lo auguro. No, lei se lo augura benissimo. Dunque, non è, riferito, non è riferito all'hacker, non diciamo stronzate. No, è riferito all'hacker. No, è riferito al bambino, signora. È riferito al bambino. Amen. Ma tanta gente muore giovane, io che ci posso fare? Cioè, no, no, però scusi, no, questo è interessante perché è importante sottolineare. Ma guardi, nessun problema. Lei spera che chiunque mangia carne, che chiunque, no, no, no, lei che spera che chiunque mangia carne muoia di cancro. Lei no. Chiunque posti la foto di un bambino che può essere suo figlio o suo nipote, perché io non lo conosco carne, questo bambino, che mangia carne, che mangia carne, merita per me di non arrivare a Natale, lo pubblichi con i manifesti. D'accordo, però lei ha detto anche, questa è una cosa orribile naturalmente, è una cosa orribile, orribile. Fa schifo, fa schifo. Cose orribili, guarda, ognuno è fa sicuro, schifo. Io per me ci sono cose più allora, orribili. Però lei ha scritto, speriamo crepi di cancro da giovane, ed era riferito chiaramente al bambino, non mi dica di no, era riferito... Questa è una sua interpretazione, no, che io non contesto. Ma scusi, ah, non contesta, cioè è così. No, no, no, non lo contesto. Però non ho neanche tempo di contestarlo, sì, io lavoro, ecco, sto lavorando. Però lei deve ammettere che è così, perché è così. E dopo che... No, ma semplicemente per, è... la verità, lei... per la verità, per la verità. Lei ha ogni diritto di tirare tutte le conclusioni che ritiene. Posta lì, è secondo, visibile. Secondo lei, chi è visibile, chi mangia, secondo lei chi mangia la carne che cos'è? È un problema suo. È un assassino chi mangia la carne? Io il mio, certo, no. Sì, anche un assassino, sì. Cioè, complice di una strage, sì, sì, sì, sì. Complice, certo, di una strage. Sì. Sì, sì, sì. Cioè, dunque, chi continua a mangiare carne... Ma io scrivo tutti i giorni, non è che è una novità. Non no, no, ma vabbè, uno può dire anche che Hitler ha fatto benissimo nella sua vita, per carità, ma va bene. No, cioè... probabilmente per tante cose, in effetti, non era male. Non era, per esempio, era vegetariano? Non lo so, non ho mai mangiato con Hitler. Non Hitler, però... però amava i suoi cani. Dunque, non era male, sì, per tanti aspetti. Amava i cani, no, però, diciamo, cani. Che ha ucciso 6 milioni di persone pur amando ma... i cani. Oh, beh, sì. Quanti animali, sì, stanno morendo ogni giorno? Ah, cioè, quanti, secondo lei è uguale? Necessariamente. No, scusa, sì, uguale. È uguale. Ma io, no, in certi casi è superiore all'animale. Cioè, no, lo sterminio, lo sterminio degli animali è peggio di quello degli ebrei, se sta dicendo. Non degli ebrei. Io non faccio distinzioni. Beh, sì, l'ha detto prima, gli ebrei, Hitler, stiamo parlando. No, Hitler me l'ha proposto lei. Se vuole possiamo parlare di Stalin, che comunque non ha ammazzato gli ebrei, ma erano sempre umani. Sempre umani, la sì. Stessa cosa. La stessa cosa, cioè lo sterminio se che è in atto adesso è un genocidio. È un genocidio, è un genocidio. Se lei guarda il mio profilo, vedrà che in tanti, tantissimi post, io mi auguro che venga la bomba atomica. Tipo? Su tanti posti. Tipo? Non so, la Cina? Bomba atomica in Cina. Bomba atomica. Perché mangiano, sì, perché sì, cosa? Vado pure a vedere. Ma anche in, anche in Italia ci sono gli allevamenti intensivi, allora. Cioè, bomba ma per l'amor di Dio, per me chiunque commette un'atrocità contro un animale merita di crepare. Merita chiaro, di... Cioè, per esempio, chiaro. Che ne so, chi maltratta un animale... Io penso che moltissima gente mangi carne perché non li vede uccidere, cioè non vede come muoiono e non li devono uccidere loro. Però quelli che lo fanno fisicamente, che maltrattano gli animali anche nei macelli ed è pubblico, cioè quelli i macellai che farebbe non il macellaio che vende la carne in bottega, no, quelli che lavorano nel macello e che vanno uccisi, le gambe che si spaccano, le buttano, le vacche che si spaccano le gambe, vanno uccisi almeno fatti le stesse cose, ecco, buttati dalla finestra che si spacchino le gambe, così capiscono. Beh, questo è interessante. I lavoratori, diciamo, dei macelli, ma i lavoratori. Ecco, lavoratori, sono lavoratori. I lavoratori dei macelli vanno buttati dalle finestre, no, così si spezzano le gambe. I lavoratori dei macelli sono pagati per eventualmente sopprimere la vacca, non per spaccarle le gambe. Ma fanno tutto lavorando nel rispetto della legge, mi pare. No, assolutamente. Fanno il loro mestiere. Assolutamente no. Il loro mestiere è sopprimere la vacca e non farla soffrire inutilmente. Infatti prima. Così fanno. La legge italiana prevede che l'animale non soffra prima di morire. Se e viene punito uno. Calcare. Infatti esiste una legge se l'animale viene maltrattato o ferito. Comunque, signora, resta il fatto non che lei... Non ucciso, però. Non viene ucciso. Resta il fatto che lei ha scritto, sì, speriamo crepi di cancro da giovane, con la foto di un ragazzo, di un bambino che mangiava una bistecca di carne. Ed è una cosa... Che però non ho pubblicato io. Agghiaccia... lei non l'ha pubblicata, però l'ha commentata. Ha scritto quella frase là. Ed è una frase agghiacciante. Perché quel bambino deve vivere, quel bambino deve vivere, quel bambino deve... Cosa deve diventare? Se deve diventare come tanti, non è una grande perdita se non lo diventa. Ma lo decide lei, scusi. Chi lo decide lei? Chi lo decide lei? Chi lo decide lei? Era meglio che morissero da giovani, lei non sa quanti. Cioè lei è la stessa che accarezza gli animali e vuole uccidere i bambini che mangiano la carne, perfetto. Ma ragazzi, veramente incredibile questa cosa qua. Non si pente assolutamente, speriamo crepi di cancro da giovane, non si pente assolutamente. Dirmi? Assolutamente no. Assolutamente. Vai. Tra l'altro l'ho scritto ieri sera, quindi non avrei avuto neanche il tempo di pentire. No, ma magari in un momento così. Non si pente. Vabbè, arrivederci signora, arrivederci. Grazie. Buona grazie, serata. Grazie. Happy new day, A me questa fogna piace ogni giorno di più. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Mi piace il cazzo, mi piace prenderlo in bocca, in culo, va bene se è così. Pompino. Allora, Roberta Montagna, la signora che avete ascoltato prima al telefono con me, David, continua a scrivere: se fosse stato vostro figlio ad essere mangiato, cioè tu ti rendi conto, no? Cioè praticamente fa il paragone tra quel pezzo di carne di bistecca e il figlio. Magari quella era carne di un cucciolo. Era carne Mamma. Di un cucciolo. Roberta Montagna, avete sentita dire che in fondo Hitler amava i suoi cani, dunque non ha fatto poi delle cose malvagie, eccetera, eccetera, eccetera. C'è chi mangia la carne complice di un assassino. Insomma, chi più ne ha più ne metta, la solita retorica nazi vegana, dai. No, si chiama delirio e basta. Ma sì, ma questo non c'è dubbio. Allora, Laura, hai sentito la nazi vegana di prima? La signora sì. Laura da Milano. Infatti, allora, mentre ero in attesa, è intervenuto il direttore sì. di della radio e mi ha detto di... Allora, io ho pensato, questa che ti ha donna detto il direttore? Non è il direttore. Ah, sì. Mio padre è morto di cancro a 58 sì. anni. Sì. E scopassero un po' di più questi vegani, cioè perché cioè, la gente che fa questi là, ragionamenti, cioè, dovrebbero pensare un po' di più all'amore, al sesso. E sarei io il direttore della radio, secondo me. No, non so chi l'ha detto. No, è intervenuto un signore che mi ha detto Laura, devi rimanere un attimino in attesa, poi ripartiamo con te. Non è il direttore della radio, sarà Mercurio, Riccardo Poli, non è il direttore della radio. Non lo so. Cioè, solo lei che deve far diventare direttore della radio Mercurio. Ma di chi stiamo parlando, ragazzi? Vabbè, è Riccardo Poli che ha risposto. Vabbè, qual è il problema? Vero, comunque, ma Mercù è un signore che non sa fare neanche la O con un bicchiere, ragazzi miei. So, ma di che parlate? Parenzo, ti voglio bene perché tu mi sei. Allora, anche se sei comunista, mi ma sei lei, comunque ma simpatico. Lei, lei signora, io non la voglio bene venire perché è una sporcacciona. Ma perché ma io sono contenta perché se lei me lo dice. Così mi eccita. Lei mi eccita. Guarda che si eccita. Oh, mamma mia. Se parli così, la ecciti. Parla di cose che dovrebbero rimanere all'interno. All'interno della sua adorabile camera da letto. Ma perché? Perché a 2 milioni di persone? Perché è una ma no, ma nessuno le chiede di nascondere. Cosa diceva John Lennon? Si ha paura a dire che si fa l'amore. Ma che mentre si dice apertamente che si uccida una persona. Ma John Lennon diceva dire? Questo e John Lennon è John Lennon. Laura, comunque il tuo grido a me piace il cane. Si è capito. No, l'abbiamo già detto. Basta, è meraviglioso. È un grido anche liberatorio. Anche l'hanno sentito anche in Israele. Un signore, un tale Hannuna, vuole il suo numero di telefono, Laura. Un signore israelitico e si sa che in Israele. Potete anche dare guarda, no, gli ebrei crisi, gli ebrei d'astinenza perché è da un po' che non faccio sesso, ecco appunto cui... gli ebrei mancava, cara signora, questa comunicazione Laura, se vuoi io meno male che la sta dando dato che sei chiuse, potremmo altrimenti... organizzare con la tua collaborazione una certo. specie di concorso per uscire chi è il prossimo che scopa Laura. Questo potrebbe essere interessante come va cosa. Benissimo, ottimo, già fatto. Allora praticamente dalla prossima settimana o anche da questa settimana signora, domani lei mi pare molto disturbata se ma glielo perché posso disturbata dire. Ma è una... cioè, non si può chiamare una radio nazionale per dire delle porcherie. Ma che ma cosa ha detto? Ha una dignità. Scusami. Allora, mamma mia, allora, ragazzi, Parenzo, preferisci quelli che a quella signora che ti ha definito bastardo ieri sera? Ma no, ma per carità, ma ci sarà una via di mezzo di tra merda. Tutto questo? Preferisci Lores? Preferisci Lores? Ma ci sarà preferisci Lores? Ma io l'ho capito, ma uno deve ma tra buttarsi in un burrone e uccidersi con la rivoltella. Ma Laura, che ti ha fatto? Quella scusa, io. Ma voglio ma dire, allora, ma ci sarà un mondo di mezzo fatto di persone normali che fanno queste pratiche perché? Che lei dice, ma senza dirlo davanti a 2 milioni di persone? Vabbè, comunque, lascia perdere, hai già detto. Esiste. Ma viva l'amore, viva il sesso, viva Laura, siamo liberi, Laura, dobbiamo essere liberi. Laura, io ti assicuro che io ti troverò qualcuno che ti piace tantissimo. La settimana prossima, chi vuole offrire le proprie grazie, chi vuole uscire con Laura, non ha che da chiamare questo numero 800 24 00 24. Adesso facciamo anche procacciatori, sì, dating, assolutamente, si chiama dating, cioè facciamo organizzare incontri di Laura, che ha detto delle cose molto chiare, molto chiare, mi sembra molto esplicite, ha detto che non fa sesso da un po' di tempo, e beh, ho capito, ma non è un problema, troveremo. Il Sole 24 Ore, cioè, già tante altre cose, non è un problema nostro questo. E no, lei è anche accettato, mi sembra, Laura, no? Sì, sì, certo. Allora, certo. Fermi tutti. Il Sole 24 Ore dovrebbe augurarsi la non felicità. Non si può occupare di queste robe. Confindustria deve puntare alla felicità. Noi facciamo incontrare delle persone che vogliono la felicità. Ma certo, perché il sesso è felicità. Oh, benissimo. Laura, prendilo in bocca, è felicità. Ottimo, per le donne. Ottimo, meraviglioso, ottimo, perché Laura. Basta con questa storia che le donne che dicono quello ma io non posso perché mi fa schifo. Vabbè, ma come ognuno... fa a farti schifo prenderlo in Laura, bocca? Però, come però, si fa? Però, scusami, Laura, scusami. Però questo adesso, francamente, io sono uno un grande cultore della libertà. Cioè, ognuno può anche decidere. Se a uno non gli va, non gli va. Non è che uno deve essere forzato. Non è normale, ho capito. Sono d'accordo con te. Ma è una cosa naturale, dai. Assolutamente. Laura, ti abbraccio, ci sentiamo la settimana prossima e ci mettiamo d'accordo sui dettagli. Abbraccio anche Parenzo. Dai un bacio in bocca a Parenzo con la lingua, un bacio in bocca con la lingua a Parenzo. Ma non mi va, ma è una persona imbarazzante. Ma che imbarazzante, la numero uno, dai, su. È una persona imbarazzante. Ciao Laura, buona serata, ciao. Ciao ascoltatori, venite a me, vi aspetto Laura, vi aspetto, ciao. Allora, dicevo di Jesolo, io farei una telefonatina a Jesolo, dove c'è un signore che è proprietario di un ristorante che vuole intitolare un ospedale, l'ospedale di Jesolo, a Mussolini, perché l'ha costruito lui, caro Parenzo. Amico mio, i fascisti si annidano ovunque in Italia, ce ne sono tantissimi. Com'è che si chiama Ennio questo, mi sembra? Ennio di nome, eh? Ennio di nome. Il cognome non me lo ricordo, adesso quando prima di prendere la linea lo troverò. Sì? Sì, Capiotto? Pronto? Sì, cercavo Ennio. Sì, sono io. Come andiamo? Sono Cruciani, Radio 24, come stai? Ah, io bene, anche Radio 24 adesso mi chiama. Come andiamo, amico mio? Allora, direi che è una grande iniziativa questa qua, no? Sì. Ma che vuoi fare? Intitolare l'ospedale a Mussolini, se non sbaglio? No. A me basta una piazzetta dentro l'ospedale e una targa. Una targa dentro l'ospedale proprio, Certo. Ma il sindaco che dice, il signor sindaco? Il sindaco non lo so ancora, non devo ancora trovarlo. Deciderà. Ma com'è che tu ti sei fissato con sta cosa di intitolare una... Perché io ho la pizzeria a fronte ospedale. Fronte ospedale, sì. Vabbè, quello sai. E dunque ti piacerebbe che il Duce avesse una sua, come dire... Certo, l'ha fatta lui, l'ospedale l'ha inaugurato lui... Sì, addirittura una volta si chiamava Istituto Elioterapico Dux, beh. Anni fa, non ero vivo io. Ma sarebbe meglio una statua, una grande statua, o no? Anche. Perché no? Ma sì, ma una grande statua, oppure la scritta Dux, no? Sì, lo so, ma sai, Dux magari non te lo lasciano scrivere. Non te lo lasciano fare. Ma domani vai a Predappio? No, io domani no, vanno i miei amici, perché ho un ambiente, una pizzeria, ristorante. Certo, la pizzeria di pizzeria, sennò altrimenti saresti là, no? A noi, sempre a noi. Senti, ma quanto sei nostalgico tu, tanto? Cioè, per te Mussolini chi è? Mussolini è stato un bravo statista, o no? Abbiamo passato 70 anni, abbiamo ancora ha fatto bonifiche, ospedali, monumenti, condomini, palazzi, sono ancora su. Adesso ci sono geometri, architetti, ingegneri, geologi, cadono con un po' di vento. Era un po' dittatorello, signor Mussolini, Era un po' va bene, ma ti vuole sempre un capo. Ci vuole un capo. Cioè, per te regge, come fa ad andare avanti? Cioè, per te ci vorrebbe anche adesso la dittatura? La dittatura, no, la dittatura un po' democratica. Dittatura democratica. Beh, un po' di gente. Devi avere delle regole nella vita, devi avere delle regole. Sì, però, amico mio, un po' di gente la mandava al confino, un po' di gente l'ammazzava, signor Mussolini. Sì, ma io dico che delle persone devi trovare il bene che hanno fatto. Perché se guardiamo tutti. Ho capito, ma ci sono dei morti, amico mio, dei morti. È possibile interloquire con questo? Quella era la guerra. Imbecille. Gli ebrei? Gli ebrei, quelli li hanno uccisi i nazisti, no? Beh, anche Mussolini un po' rapportati. Si può interloquire con l'imbecille un attimo oppure no? Sì, vai, dimmi. Pronto? Sì. Si può interloquire con l'imbecille fascista che ha parlato fino ad ora o no? Si può interloquire un attimo? Allora chiudo. No, aspetta. Allora, eccolo il democratico. Giulia la tua sorella? Ma ci manca, non c'è sorella purtroppo, ma ci mancherebbe altro che non la chiamassi imbecille. Ciao, grazie. Aspetta. Scusi, signor fascista, scusi un istante, signor fascista. Ciao. Aspetta. Sei sempre il solito, eh? Sei sempre il solito. Di fronte, mi sembrava di fronte il minimo, ai fascisti, posso farlo in questo di fronte modo, ai fascisti non ti tieni, eh? Non ti tieni. Ma non è che nessuno normale dovrebbe tenersi. Ma questo è un ostaggio, ma lasciali dire il cazzo che vuole, dai. Sì, attaccalo, per carità, attaccalo, attaccalo. Biagio, provincia di Cuneo, vai ragazzi, andiamo. No, Beppe, comunque, Parenzo, fate una ragione, lunga vita a Laura. Comunque, ha detto questo, fate questo. Ragazzi, cioè, cominciate con le candidature, Laura vuole trovare un tipo a Milano. Lunga vita. Comunque, vai. Volevo dirti, Cruciani, senti un po', ma con la tua trasmissione praticamente è saltato fuori Riccardo di Roma, il Donato da Varese. Vabbè, allora? Ecco, allora, volevo capire un attimino. Se un domani questo culo di questi qua si alza e dovesse fare qualche cazzata in giro, tipo ammazzare qualcuno che hanno sempre detto, ma che ne so, dire, la colpa di chi se sarà, uno vuole ammazzare, ma che ne so la colpa di chi sarà, certo non no. Mia, se questi vogliono ammazzare qualcuno non credo che arriveranno. Ma tu non ti fai problemi, dico, no, visto che voglio dire ogni tanto la prendi anche con Maometto, questo e l'altro, voglio dire, ma che c'entra questo, tu stai parlando di un'altra cosa, qualcuno che vuole che ammazza qualcuno, voglio dire, tu non ti fai nessun problema, se un domani uno di questi qua ti viene a trovare, voglio dire, che facciamo, ti facciamo sangue. Tanto poi ti dobbiamo verificare, voglio dire. No, ma speriamo di no. No. Ciao, Fabrizio Ravenna, dai, Fabrizio. Fabrizio? Ciao. Dimmi. Niente, siccome sono un deficiente, riconosco bene i deficienti, vorrei ricordare a tutti e due, voi sì, due stronzi, che sì. Siete deficienti. E questo perché, scusa? Di utilità sociale. Perché? Niente. Ma che vuol dire che siamo due deficienti, scusami? Beh, che vuol dire? Saluti a sei casa, un deficiente, grazie. Sì. L'altro vicino a te è deficiente. Sì, vabbè, ma questo deficiente. Secondo quale criterio? Ecco, che cosa che ti ha spinto a dire sì. Questa cosa? Beh, vi ascolto tutte le sere, riconosco i deficienti essendo io per primo, quindi vi ricordo che se volete vi chiamo anche domani sera. Cioè hai aspettato qualche minuto, perché mi sembra che sei entrato adesso della mia vita, della tua vita, sì. Per dire che siamo due cretini essendo anche tu cretino. E sono felicissimo di sei felicissimo, cosa. Benissimo. Giuseppe da Padova, è legittimo Giuseppe però da Padova. Questo sì, perché sì, ciao Giuseppe, dimmi. Ciao. Ascolta, ma cosa sta succedendo in Veneto? Allora, adesso questo qua di Jesolo che vuole intitolare la targhetta lì al in ospedale. Sì. Poi prima quell'altra ritardata, con tutto il rispetto per i veri ritardati, di Lores lì da Vicenza. Lì. Ieri ma che sera, sì. Dice? Cioè, nel senso, io vi ho sentito dire più volte di più le persone per delle cazzate molto meno pesanti di quelle che ha detto sta Lores, no? Che ha detto allora cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? No, voglio dire che dovreste essere leggermente più dovremmo pesanti, cioè persone. tu mi vieni a dire a me come dovrei essere io. No, visto che visto cioè che tu chiami a parte che Parenzo lotta continuamente ogni volta che chiama Lores, ma non ho capito. Tu mi vieni a dire a me, cioè tu chiami la radio per dirmi tu dovresti comportarti con Lores in questo modo. Ma dovresti mandarla a fanculo come mandi a fanculo un sacco di gente. Io mando a fanculo chi voglio, come voglio e quando voglio, chiaro? Cioè non sei tu a dirmi come e dove devo mandare a fare in culo le persone. Ragazzi, a domani, ciao. La Zanzara, attenzione, non fare complimenti alla trasmissione, non ce ne frega un cazzo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24, libera la voglia di fare.